La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 121. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. L'articolo 121 riguarda gli organi regionali. Siamo sempre nella parte del titolo quinto che riguarda regioni, province e comuni e in particolare gli articoli 121, 122 e 123 disciplinano proprio l'organizzazione della regione. L'articolo 121 ci ricorda che gli organi della regione sono Consiglio regionale, Giunta e Presidente. Quindi l'impianto, l'impostazione ricorda quella di un piccolo Stato, perché il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa, la Giunta, l'organo esecutivo, il Governo e il Presidente ne è il legale rappresentante. Infatti, come spiegano proprio i successivi commi, il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alle Regioni e inoltre può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è organo esecutivo, il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica, ne è responsabile e promulga le leggi, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, comunque conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Ecco l'idea base. La Regione è una piccola organizzazione politica che quindi ha le sue elezioni, la sua assemblea legislativa. Ovviamente l'idea del Costituente era quella di uno Stato accentrato in cui le regioni avevano poteri limitati, salvo le regioni speciali. Invece con la riforma del 2001 si è cercato di dare più spazio alle regioni, andando verso un sistema quasi federale. Ma poi ciò non si è realmente verificato perché in questi anni ci siamo accorti di come l'Italia abbia bisogno di più statalismo, più centralismo e l'autonomia deve essere disciplinata in maniera ragionevole. Oh,